Letture di Radio 24. L'antica città di Babilonia è minacciata da una parte dall'industria petrolifera, dall'altra da un turismo indiscriminato. Tutelare il passato o aprire le porte al futuro? Mariam, direttrice del sito di Babilonia per conto del Dipartimento Iracheno di Antichità, non ha dubbi. Quando il greggio si esaurirà, avremo ancora i siti archeologici. Un oleodotto che attraversa l'antica città di Babilonia. Per impedire l'ennesimo insulto al simbolo del patrimonio archeologico della Mesopotamia, Mariam Omran Musa è ricorsa a ogni mezzo. Ha mosso le sue conoscenze altolocate, ha bussato alle porte dei potenti nella capitale Baghdad. Insieme al Ministero del Turismo, ha perfino intentato un'improbabile causa contro il più potente dei ministeri, quello del petrolio. Invano. Gli sforzi della direttrice del sito di Babilonia per conto del Dipartimento Iracheno di Antichità, la SBA, sono stati inutili. La battaglia era iniziata all'inizio dell'anno, quando sulla polverosa collina di fango e sabbia che si affaccia davanti all'antica Babilonia sono arrivati gli ingegneri con i loro rilevatori. Poi è stata la volta degli eleganti uomini del Ministero del Petrolio, protetti dalle loro guardie del corpo. Dopo di loro è stato il turno dei bulldozer. Hanno scavato in quei dossi sabbiosi, che ognuno vede a modo suo. Per gli uomini del petrolio è solo una massa di detriti e polvere. Per gli archeologi dello SBA, invece, un terreno che nasconde stratificazioni culturali e che potrebbe contenere diversi reperti e mattoni di fango crudo, difficili da individuare. La terra è stata rimossa, il tubo adagiato e ricoperto, e presto, forse già in giugno, sarà inaugurato l'oleodotto. Immaginatevi di essere donna in un paese dove la presenza femminile in posizioni dirigenziali è mal vista dai più conservatori, e di lavorare per un ente, lo SBA, in cui i vertici sono in buona parte sunniti, ex membri del partito Ba'at, ora illegale e inviso alla maggioranza sciita. Pensate infine di sfidare l'espansione della sola industria a cui si affida il nuovo Iraq. La causa sembra destinata a soccombere, ma lei è decisa a difendere la più grande città del mondo antico, dove ha cominciato a lavorare 33 anni fa. Attendiamo il verdetto, spiega. Non è difficile accertare dove stia la verità. L'oleodotto attraversa le mura esterne, entrando nel cuore di Babilonia da nord a sud, per 1,5 chilometri. Potrebbe dunque scorrere sotto i leggendari giardini pensili, una delle 7 meraviglie del mondo antico. L'oleodotto, che parte da Bassora, fornirà 45.000 barili di prodotti derivati alla capitale, martoriata dai blackout e dalla carenza di carburante. In campo archeologico, continua Mariam, l'ingresso in un sito di un macchinario pesante è considerata una grave violazione. Figuriamoci quando si scava per dei tubi a una profondità e a una lunghezza di questa estensione. Visto il liquido che trasporta, c'è anche il rischio di perdite o di un'esplosione. La battaglia tra archeologi e Ministero del Petrolio riflette un dilemma. Cosa avviene prima? La tutela del patrimonio archeologico, che tuttavia richiederà molti anni per divenire una fonte di reddito? Oppure lo sviluppo, certo più rapido e remunerativo, della ricca industria degli idrocarburi? Mariam una risposta ce l'ha. Il petrolio e il patrimonio archeologico sono entrambi la ricchezza del nostro paese, ma quando il greggio si esaurirà, avremo ancora i siti archeologici. Anche il Ministero del Petrolio ha le idee chiare. È stato fatto ogni calcolo e non è stato trovato nulla durante i lavori, condotti peraltro con grande cautela. Abbiamo seguito la traccia del progetto precedente, vale a dire i due oleodotti costruiti nelle vicinanze negli anni Ottanta, di cui uno non è più in uso. Ma se qualcuno in passato ha sbagliato, bisogna per forza perseverare? Ribatte Mariam. Al di là delle schermaglie, il destino della città fondata nel XXIII secolo avanti Cristo, conquistata da Ciro II nel 539 avanti Cristo e ripresa da Alessandro Magno 2 secoli dopo, è sempre stato avverso, anche nei tempi moderni. Saddam ci aveva già messo del suo con i suoi restauri correttivi, inserendo mattoncini con il suo logo a imitazione degli antichi sovrani. D'altronde lui proclamava di essere il discendente del re Nabucodonosor e così fece costruire nuove mura, creando ex novo un anfiteatro e riedificando la porta di Ishtar, le cui parti originali sono custodite a Berlino. Babilonia, autopsia di un disastro, il titolo del primo capitolo che l'archeologo Paolo Brusasco, docente di storia del vicino Oriente Antico all'Università di Genova, affronta nel suo libro Babilonia all'origine del mito, descrive in modo efficace il degrado in cui versa la città. E oggi, dice Brusasco, c'è una nuova minaccia, il rilancio di un turismo indiscriminato da parte del governo a maggioranza sciita e del suo Ministero del Turismo, che vede nelle rovine un'occasione per far cassa e che sta soppiantando lo spa di matrice sunnita. Nei siti sono state costruite aree da picnic. Il turismo è una risorsa, ma i flussi devono essere regolati. Quanto all'oleodotto, nessuno è in grado di sapere se ci sono stati danni, ma è molto probabile. L'area di Babilonia è in gran parte inesplorata, come lo è tutto il paese. I siti archeologici classificati sono 12.000. È del tutto plausibile, conclude Brusasco, che possono essere decine di migliaia, tutti vulnerabili. Le missioni archeologiche straniere si contano sulla punta delle dita. Per troppo tempo l'Iraq è rimasto l'eterna promessa mancata. Possiede 120 miliardi di barili, le seconde riserve mondiali accertate, ma nel suo sottosuolo si nasconderebbero altri 100 miliardi di barili. Per un paese che non è riuscito a curare la sua petrodipendenza, la ricchezza è proporzionale a quanto greggio uscirà dai rubinetti. Il petrolio rappresenta il 90% in valore dell'export. La produzione è tornata a 3 milioni di barili al giorno, un livello che non si vedeva dal 1990. L'oleodotto è solo l'ultima, anche se più evidente, ferita inferta al patrimonio culturale della terra tra i due fiumi. Un Eldorado dell'archeologia, eppure, per motivi di sicurezza, una delle regioni più disertate dagli archeologi di tutto il mondo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi di un articolo di Roberto Bongiorni dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. L'abitudine di dare del tu a chiunque è sempre più diffusa. In questo modo, commenta Adolfo Allegra sul mensile I Love Sicilia, si perde il riconoscimento delle diversità e la confusione dei ruoli rende più difficile la gestione degli attriti tra posizioni gerarchiche diverse. L'episodio risale a circa 15 anni fa. Allora ancora fumavo, per fortuna da 14 anni ho smesso. E in un pomeriggio di scirocco d'estate mi fermai con la motocicletta davanti a un tabaccaio per comprare un pacchetto di sigarette. Entrato nella tabaccheria, vidi che dietro il bancone c'era un ragazzo di 17-18 anni. Gli chiesi un pacchetto di Diana Blu e mi sentii rispondere: «Come le vuoi, dure o morbide?» Dopo un attimo di perplessità, mi venne spontaneo rispondere con una domanda. «Io ero nella sezione D al liceo, ma non mi ricordo di te. Eravamo forse compagni di classe?» Mi resi immediatamente conto che il ragazzo non aveva colto la mia domanda sarcastica e irritata e quindi non aveva capito perché parlassi di scuola e compagni di classe, secondo quale schema educazionale un ragazzo di 18 anni dà del tu a un adulto. Ma poi, riflettendo, mi resi conto che quel giovane tabaccaio non era l'eccezione. Anzi, atteggiamenti come il suo stavano diventando la norma. Tutti gli istruttori di sport ti danno del tu e senza peraltro neanche condividere con te questa possibilità. Quando arrivi in un villaggio vacanze, darsi del tu tra persone che possono avere una differenza d'età di 50 anni è addirittura un obbligo. Ancora, in tutti gli ambiti di lavoro oggi tutti danno del tu a tutti. Il direttore che si dà del tu con un suo impiegato, da un canto fa erroneamente credere a quest'ultimo di essere in una posizione paritetica rispetto al suo superiore e dall'altro si pone egli stesso in una condizione certamente di maggiore difficoltà nel caso in cui, come spesso avviene nella quotidianità dei rapporti di lavoro, debba riprendere il collaboratore. Purtroppo anche i professori a scuola in tanti casi oggi permettono agli alunni di dar loro del tu. In questo modo io ritengo che essi stessi contribuiscano alla perdita di autorità e anche di autorevolezza, di cui poi, giustamente, si lamentano. So bene che il tracollo di autorevolezza dei professori è la conseguenza di tante cause ben più gravi che non il permettere agli alunni di dare del tu. Però è come dire: poiché ho preso tante bastonate, provvedo io stesso a darmene delle altre. Questo annulliamo le differenze, non è utile a creare empatia, ma soltanto a indurre i ragazzi a pensare che possono permettersi tutto quello che ci si permette tra uguali. Quale grande empatia c'era, ad esempio, invece, tra me e il mio professore di filosofia del liceo, al quale ovviamente io davo rigorosamente del lei, ma che ritenevo davvero un eccezionale didatta che mi guidava nel mondo della conoscenza. Mi rendo conto che l'obiezione facile è che non è il tuo o il lei che nella concretezza cambia il rapporto di rispetto e deferenza rispetto a chi si riconosce essere una persona con maggiore esperienza, ma secondo me aiuta. Comunque è vero il contrario. Infatti il tu porta ad annullare distanze di età, storia, cultura, esperienza, background personale e a confondere tutti in una maionese alla fine per tutti improduttiva. Nella nostra lingua il lei non è soltanto una forma semantica di primo approccio nei confronti delle persone che non si conoscono, ma principalmente è una modalità di espressione del rispetto dei più giovani verso le persone più grandi. So bene che nella lingua globale, l'inglese, esiste soltanto la forma you, ma attenzione, gli inglesi esprimono la deferenza e il rispetto nei confronti dell'interlocutore in rapporto a come contestualizzano l'uso di you. Quello che, secondo me, è oggi gravissimo è che si stia perdendo il rispetto per le persone più grandi, per gli anziani, per coloro che comunque meritano la nostra deferenza. Il tu a tutti e a ogni costo è soltanto una spia di questa perdita del riconoscimento delle diversità e del rispetto per questa diversità che non è soltanto anagrafica, ma anche di esperienza, di conoscenze, di storia, di vissuto, eccetera. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Adolfo Allegra, Mi dia del lei, dal numero di giugno della rivista I Love Sicilia.